Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17.08 minuti, ultima puntata per questa settimana di Focus Economia, una giornata completamente concentrata sul Consiglio dei Ministri, almeno per quanto riguarda l'economia in Italia, ma anche per molti altri temi, come avete sentito dal nostro giornale radio, e quindi il disegno di legge sul processo penale, poi il decreto riguardante il caso Englaro, ma per quanto riguarda appunto l'economia, tutte le misure a favore del settore auto e gli incentivi, anzi le detrazioni per quanto riguarda gli elettrodomestici. Questo sarà il tema di apertura della nostra puntata e quindi l'approfondimento di quest'oggi, però parleremo anche ovviamente di tutte le reazioni dal mondo imprenditoriale da Venezia, dove è in corso un appuntamento importante organizzato dalla Confindustria. Poi parleremo dei mercati, dell'andamento dei mercati e dei dati in arrivo dagli Stati Uniti. Anche qui lo avete sentito nel corso del nostro giornale radio, dati piuttosto preoccupanti, disoccupazione a livelli record 7,6%, e però anche il piano di stimoli all'economia che è ora sotto la lente del Congresso e che in questo momento fa sì che il Dow Jones guadagni il 2,27% e il Nasdaq il 2,02%. Ha permesso anche all'Europa, che era partita un po' più piano questa mattina, di accelerare il passo verso la chiusura. Parigi guadagna l'1,92%, Francoforte il 2,93%, Londra è in progresso del 2,02%. Molto bene anche Milano, dove il MIBTEL guadagna il 2,09%, l'S&P MIB il 2,38%. In questo momento il miglior titolo è STM, che guadagna oltre 7 punti percentuali. In fondo al listino invece il peggiore è Terna, che cede 1,0 e 60%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,28 e 74 sul dollaro. Questi sono i temi che affronteremo oggi. 349-238-6666 per i vostri SMS. Adesso invece andiamo a sentire quelle che sono le notizie in breve. E come ogni giorno partiamo dal petrolio che apre in calo a New York, cede il 3,4% in apertura a $39,76 al barile. E di questa continua discesa del prezzo del greggio, almeno dai prezzi di quest'estate, su questo tema è intervenuto l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni quest'oggi a Venezia, lo ricordavamo poc'anzi, nel corso della Winter University di Confindustria, il quale ha detto che la caduta dei prezzi del petrolio porterà una sorta di bonus nelle tasche dei cittadini del valore di €1,400. Un'altra buona notizia per i consumatori arriva, come ormai di consueto, ogni giorno dall'Euribor. L'Euribor a tre mesi è sceso oggi dal 2,04% al 2,02%, il livello più basso da quasi 5 anni, dal 1 aprile 2004. Ricordiamo che l'Euribor a tre mesi è il tasso a cui di solito sono agganciati i mutui variabili. In materia di banche, poco fa ha parlato il ministro Tremonti. Tremonti parlava nel corso della conferenza stampa che ha chiuso il Consiglio dei Ministri di oggi e quindi si è concentrato sulle misure approvate quest'oggi dal governo per incentivare i consumi e della copertura. Però Tremonti ha parlato anche di alcuni possibili salvataggi bancari nel corso del weekend e ha detto: finora in Europa ci sono stati più di 30 salvataggi bancari, non escludo che ce ne saranno altri proprio nel corso di questo weekend. Sentiamolo. L'obiezione che ci viene fatta da tanti maestri, a volte anche da tanti cattivi maestri, e cioè gli altri fanno debito e quindi fanno molto, voi non fate debito e quindi fate poco, non abbastanza. Segnalo il fatto che tutta la dinamica del debito, quasi tutta, degli altri paesi è causata da interventi necessari di salvataggio bancario. A oggi i salvataggi bancari in Europa sono stati più di 30 e non è escluso che il prossimo weekend ne avvengano altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo stati in una linea che viene considerata, può essere considerata la linea giusta. E ancora crisi in Giappone. Toyota Motor ha abbassato per la terza volta le sue stime sull'esercizio 2008-2009. Il primo produttore al mondo di auto valuta in 350 miliardi di yen, più o meno 2,9 miliardi di euro, la perdita netta al 31 marzo a causa del peggioramento appunto della crisi economica. E anche per questo la Toyota perde la tripla A, Moody's taglia il rating e lo porta ad AA1. Negli Stati Uniti, appunto, lo abbiamo detto, lo stiamo ripetendo, ne parleremo poi nel corso della trasmissione, l'economia statunitense a gennaio ha perso 598.000 posti di lavoro, molto più della stima media degli analisti. Il tasso di disoccupazione è salito sempre a gennaio al 7,6%, la stima era di un rialzo al 7,5% dal 7,2% di dicembre. Durante la recessione in corso negli Stati Uniti hanno perso il posto di lavoro 3,6 milioni di posti di lavoro, il calo peggiore del dopoguerra. I dati sull'andamento del mercato del lavoro mostrano come l'economia americana si stia contraendo in modo forte, forte è un eufemismo, e evidenziano la necessità di un'azione fiscale vigorosa. Questo è quanto affermato in una nota Christina Romer del Consiglio degli Advisor Economici del presidente Barack Obama. Lo abbiamo detto, il tasso di disoccupazione è al 7,6%. La signora Romer dice che il numero degli americani disoccupati è pari a 11,6%. 6 milioni. Ovviamente la crisi ha attaccato tutti. La Germania, la produzione industriale tedesca ha registrato a dicembre un calo mensile del 4,6%, la contrazione più forte da 18 anni a questa parte, dai tempi della riunificazione delle due Germanie. Il ribasso è quasi doppio rispetto alle stime degli economisti che si attendevano un meno 2,5%. I provvedimenti per affrontare la crisi economica sono stati presentati ieri anche in Francia direttamente dal presidente Nicolas Sarkozy. Nel corso di una lunga intervista alla TV francese, Sarkozy ha tra l'altro annunciato l'abolizione dal 2010 della tassa professionale, ovvero l'IRAP francese più o meno, che porta 8 miliardi di euro alle casse pubbliche. Ma sentiamo Sarkozy. Je vais proposer à toutes les organisations syndicales. Proporrò a tutte le organizzazioni sindacali e imprenditoriali un incontro il prossimo 18 febbraio per discutere una serie di misure sociali sul fisco per aiutare le imprese, i redditi più bassi, le persone anziane, i giovani disoccupati. Il 2009 sarà un anno molto difficile e c'è la speranza che la ripresa possa esserci nel 2010, ma nessuno è in grado di prevedere quando effettivamente l'economia ripartirà. Io preferisco che le persone, anche se con un'occupazione a tempo determinato, conservino il loro posto di lavoro, piuttosto che vengano mandati via dalle imprese. Il 18 febbraio voglio che si discuta di un tema di primaria importanza in Francia, ossia quello della ripartizione dei profitti generati dalle aziende. Come si può mediare tra la richiesta legittima degli azionisti e le richieste dei lavoratori? Spero che sulla questione della ripartizione dei profitti venga posto il problema del presente e del futuro. Quando l'impresa distribuisce agli azionisti tutti i guadagni di un anno, non può più investire. Io voglio anche che si fermi la delocalizzazione e, se possibile, rilocalizzare. Ma quello in cui credo profondamente è che non è possibile avere tutto il nostro sistema di tassazione basato sulla produzione se si vogliono conservare i posti di lavoro in Francia. Voglio annunciare l'abolizione dal 2010 della tassa professionale, una misura che costerà 8 miliardi di euro. Infine, aiuteremo le case automobilistiche a investire nel motore elettrico, pulito. Les industries automobiles a investir dans le moteur électrique, dans le moteur propre. E dunque la principale preoccupazione di tutti i governi a questo punto è quello di mantenere i posti di lavoro, di salvaguardare i posti di lavoro. A questo proposito rispondo anche ad un ascoltatore che ci scrive in maniera anche scherzosa. Ieri Barisoni rispondendo a un radioascoltatore, ha detto che non ci sarebbe stato problema per lui se Radio 24 lo avesse sostituito con un altro. Non è che lo hanno preso in parola. No, signor Cesare, non si preoccupi, Sebastiano Barisoni oggi aveva un impegno personale e per cui non è qui con voi, ma tornerà puntualmente lunedì, per cui nessun problema a Radio 24. Noi siamo tutti ai nostri posti. E allora, come abbiamo già detto, primo tema di approfondimento quest'oggi, dove si è focalizzata tutta l'attenzione economica per la giornata sul Consiglio dei Ministri, noi parliamo delle misure anticrisi o salvaconsumi, come le si vuol chiamare, quelle che sono state approvate oggi dal governo. E allora cominciamo col dire che è stato approvato un bonus da 1.500 euro per acquisto di una vettura Euro 4 o Euro 5, e poi ancora ci sarà un bonus da 2.500 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri in cambio della rottamazione di veicoli Euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 1999. È previsto inoltre un bonus di 1.500 euro per auto a metano e idrogeno. Poi ancora, niente bollo gratis. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri non prevede lo sconto fiscale sulla tassa automobilistica. Ci sono ovviamente misure anche per le moto e qui sale il bonus, anche in questo caso 500 euro per la rottamazione di motorini e motocicli Euro 0 e Euro 1 in cambio di una nuova due ruote Euro 3 fino a 400 di cilindrata. Questo è quanto appunto previsto dal decreto legge e fin qui quello che riguarda la rottamazione dei veicoli e l'acquisto di nuovi veicoli. Per quanto riguarda gli elettrodomestici e i mobili per la casa, sarà sostenuto uno sconto sull'IRPEF del 20%, la spesa massima è di 10.000 euro e vale se legata ad una ristrutturazione edilizia. Si considereranno al proposito le domande di ristrutturazione avviate dal 1 luglio 2008. Tutto questo pacchetto costa più o meno 2 miliardi di euro, quindi il decreto legge a sostegno del settore automobilistico e non solo, appunto, che prevede anche sconti fiscali per elettrodomestici e mobili, vale oltre 2 miliardi di euro e tutte le misure scadono il 31 dicembre 2009, quindi valgono poco meno di un anno. Nel corso della conferenza stampa sono state date anche delle cifre per quanto riguarda la salute dei conti pubblici italiani, in particolare per quanto riguarda il PIL del 2009 registrerà un calo del 2%, mentre il deficit si attesterà al 3,7%. Questo a quanto si apprende, poi quanto ha detto anche Tremonti, il nuovo programma di stabilità che il governo italiano si appresta a presentare a Bruxelles. E allora noi sentiamo quanto ha detto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi aprendo la conferenza stampa e passando a parlare proprio in particolare delle misure varate oggi per in qualche modo incentivare i consumi. Ha detto le misure potrebbero dare una spinta complessiva tra lo 0,5 e l'1%, questo è quanto ha detto il Presidente del Consiglio, ascoltiamolo. Contrazione delle vendite e la riduzione della produzione per il 2009 in assenza di incentivi determinerebbero anche un grande costo per lo Stato per una mancanza, una diminuzione degli introiti che è valutabile in una riduzione del gettito IVA per quanto riguarda le auto immatricolate in assenza di questi interventi pari a 700 milioni di euro, una riduzione del gettito fiscale complessivo da 1,3 miliardi e maggiori oneri di cassa per le persone che vengono messe in cassa di integrazione di 500 milioni di euro. Quali coperture finanziarie comportano per il bilancio dello Stato? Oltre 2 miliardi di euro, a seconda di come verranno utilizzate le varie misure. Però questi incentivi si ripagheranno, come ovvio, in termini di maggior gettito fiscale derivanti dai maggiori acquisti, ho ricordato poco fa di minori costi per la cassa di integrazione e minori costi provocati dai danni per l'inquinamento ambientale e infine ho ricordato già maggiore sicurezza sulle strade, quindi meno incidenti, minori costi per la sanità pubblica. Questo intervento è, come deve essere, compatibile con i conti pubblici e potrebbe dare una spinta complessiva ai consumi che potrebbe essere entro lo 0,5 e ottimisticamente l'1% di PIL. Prima di farvi ascoltare anche quanto ha dichiarato sempre nel corso della conferenza stampa il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola e poi il ministro dell'economia Giulio Tremonti, saluto il collega Dino Pesole del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto al telefono. Buonasera Dino. Buonasera Valeria, eccomi. Allora, ti chiederei appunto di ascoltare con noi quanto ha detto anche il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, ha parlato ovviamente in particolare proprio del settore auto, di tutto il parco che è potenzialmente interessato, delle vetture da rottamare e anche del fatto che il nostro è il parco auto più vecchio d'Europa. Sentiamo Scajola. Noi abbiamo, dicevamo, il parco auto più vecchio d'Europa. Questo provvedimento si rivolge a auto che hanno più di 10 anni e quindi è un parco di 15 milioni di autovetture che sono i potenziali utilizzatori di questo provvedimento di favore. A chi quindi dà indietro alla rottamazione un'auto fino al 1999, fino al 31 dicembre 1999, avrà un bonus di 1.500 euro. Abbiamo pensato ai veicoli commerciali leggeri, i camioncini, i furgoncini, i padroncini delle partite IVA, questi mezzi che inquinano molto ed è un parco veramente anziano, veramente vecchio. A costoro, sempre comprando un nuovo mezzo a emissioni modernità, fino ai vecchi del 31 dicembre 99, viene dato un bonus in rottamazione di 2.500 euro. E allora è stato toccato in più punti il problema, secondo il ministro Tremonti non è un problema quello della copertura, sentiamo quanto ha detto proprio il ministro dell'economia per spiegare come verranno pagate tutte queste misure. L'impatto sul bilancio è stato calcolato con grandissima attenzione, anche in base alle esperienze delle misure prese negli anni scorsi. Abbiamo calcolato un effetto di autofinanziamento, a valle di quello sono state venute fuori delle cifre che dovevano essere coperte, sono state coperte. Sono state coperte senza nessuna difficoltà. Il problema dell'Italia e dello sviluppo non è avere soldi pubblici da mettere in campo, ma è spendere i soldi pubblici. Non abbiamo avuto la minima difficoltà nella quadra di copertura di bilancio del provvedimento di oggi perché abbiamo trovato nel bilancio dello Stato una quantità di voci che diversamente erano residui o non spese. In generale, quando ti dicono non fatti abbastanza, c'è gente che ti dice fai un punto di PIL di spesa pubblica in più, poi fai un arbitraggio sulle riforme future. Se fai un punto di deficit in più, per avere soldi da spendere, primo ti prendi il rischio sul debito, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Scrivere un fondo di giornale, fai più deficit, sono capaci tutti. Fare le aste è una cosa un po' più complicata. Allora, Dino Pesole, cercando di spiegare un po' anche quanto ha detto il ministro Tremonti, più o meno queste misure costano un po' più di 2 miliardi. Da dove arrivano, da dove sono riusciti a tirarle fuori dal bilancio questi 2 miliardi di euro? Sostanzialmente si tratta di una doppia operazione. La prima è consegnata, diciamo, all'effetto di maggiore introito fiscale che dovrebbe derivare dalle nuove immatricolazioni. Quindi se si immagina che ci possa essere attraverso questi incentivi un impulso all'acquisto di nuove auto, su queste nuove auto verrà applicata l'IVA e le relative imposte e questo dovrebbe in parte autofinanziare l'operazione. Per il resto diciamo che ci sono due poste di bilancio. Quella principale riguarda la ulteriore utilizzazione di una parte del fondo delle aree sottoutilizzate e una parte del bilancio dello Stato riferita ai cosiddetti residui passivi, vale a dire sono somme anche ingenti peraltro, che persistono nel bilancio dello Stato ogni anno e che sostanzialmente sono dei fondi di bilancio che a fronte di impegni di spesa già autorizzati, a questi impegni di spesa non è corrisposta un'uscita e dunque si tratta di quelli che in termine tecnico vengono definiti residui, stanziamenti che possono essere in qualche modo, come dire, utilizzati anche in parte per coprire nuova spesa corrente. Quindi questo è un po' il quadro. È ovvio che in un meccanismo di copertura di questo tipo c'è un margine di incertezza, perché è ovvio che essendo tutto legato alla possibilità che si possano immatricolare nuove auto, è ovvio che solo alla fine si potrà avere, diciamo, una percezione esatta di quello, certo, che è poi l'impatto. Un quadro più certo. Tra l'altro, Dino, ovviamente questa non è la prima volta che si procede attraverso incentivi alla rottamazione, anzi negli ultimi anni abbiamo assistito più volte e forse negli ultimi periodi il desiderio, ma anche la possibilità concreta di cambiare la propria vettura nonostante l'incentivo è andata un po' scemando. In effetti se noi guardiamo al risultato ad esempio delle operazioni di rottamazione delle auto che sono state disposte negli ultimi due anni, perché anche questo va ricordato, qui si tratta di una proroga ancorché allargata e potenziata di misure che già erano presenti nel 2007 e 2008, c'è stato da parte del precedente governo, ci sono state delle misure di proroga della rottamazione per la verità con incentivi soprattutto nel 2008 decisamente inferiori a quelli messi in campo oggi dal governo, e tuttavia i risultati non sono stati brillanti, perché se noi vediamo appunto i dati diffusi anche dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi relativamente alle nuove immatricolazioni nel 2008, vediamo che insomma tutto questo grande effetto degli incentivi sui nuovi acquisti non c'è stato, ed è proprio per questo che a mio avviso occorre mantenere, diciamo, un po' di prudenza anche nelle coperture, perché chi lo sa quante di queste 15 milioni di auto potenzialmente interessate ad essere sostituite poi verranno sostituite effettivamente? Nessuno al momento. Quindi, come dire, è un po' una scommessa che però, va detto per onore di verità, è collegata allo strumento stesso dell'incentivo. L'incentivo è una scommessa. È certo. Allora, stiamo parlando del decreto approvato oggi dal Governo, dal Consiglio dei Ministri, che prevede misure a sostegno dei consumi, in particolare per quanto riguarda le auto e gli elettrodomestici. Stavamo appunto parlando con Dino Pesole, il collega del Sole 24 Ore, che intanto ringrazio per essere rimasto collegato telefonicamente con noi. E allora, Dino, intanto abbiamo detto, e magari ripetiamo anche, che comunque sono misure che poi andranno valutate sul campo, perché bisogna vedere se oltre all'incentivo c'è anche la possibilità di pagare le rate di una nuova macchina, appunto nonostante l'incentivo alla rottamazione. Per quanto riguarda il bollo, è stata fatta ovviamente una scelta, niente più bollo gratis. È stata fatta una scelta, tra le ipotesi allo studio che erano state ventilate nei giorni scorsi c'era anche a un certo punto la possibilità che si potesse ricorrere a un mix, cioè sia bonus che in qualche modo anche una forma di esenzione biennale o triennale dal bollo. Allora, questa ultima misura è stata poi a un certo punto scartata dal governo, si immagina per un motivo molto preciso, poiché è in atto un confronto con le regioni e in genere con gli enti locali, comuni e province, sia per quel che riguarda, diciamo, gli assetti di quello che sarà il futuro federalismo fiscale, sia per quanto riguarda gli 8 miliardi del fondo aree sottoutilizzate, che poi sono fondi europei, che il governo vorrebbe in parte utilizzare per potenziare la dote finanziaria degli ammortizzatori sociali, e che però sono fondi, come dire, prettamente di competenza delle regioni, destinate per vincolo europeo alla formazione, poiché c'è una trattativa in corso, comunque diciamo di carattere generale su questi punti, è probabile che il governo abbia deciso di soprassedere anche per non, come dire, in qualche modo incidere trattativa. Per non aggiungere problema a problema, insomma. Per non... Esattamente. grazie a Dino Fesole per essere stato con noi, a grazie lui buon a voi. Lavoro. E allora, chi ci scrive al 349-238-6666, ad esempio, ho rottamato l'auto la settimana scorsa e comprato un Euro 4, avrò diritto agli incentivi? Probabilmente no, signora Marta, però bisognerà sempre vedere che cosa c'è scritto poi concretamente nel decreto. Il testo ancora non è a nostra disposizione, quindi bisognerà aspettare le prossime ore per capire esattamente quali sono le condizioni. Questo vale anche per il signore che ci scrive che ha comprato casa e non avrà il bonus per i mobili, mentre chi ristruttura sì. Bisognerà sempre capire e vedere con precisione quanto è stabilito all'interno del decreto, quali sono le condizioni per accedere a tutti i tipi di bonus e di detrazioni. Ovviamente tutto quanto è stato stabilito e deciso nel Consiglio dei Ministri di questa mattina ha avuto le sue ripercussioni nel mondo imprenditoriale, in gran parte riunito a Venezia, al Winter University di Confindustria, la due giorni di dibattiti e incontri quest'anno dedicata al tema risorse per il futuro. Questa di quest'anno era la terza edizione. Siamo in collegamento con il nostro collega Vincenzo Miglietta. Buonasera Vincenzo, anche a te. Buonasera ai nostri ascoltatori. E allora Vincenzo, dicevamo ripercussioni e quindi anche giudizi su quanto è stato deciso questa mattina dal Consiglio dei Ministri, a partire credo proprio dalla Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. È proprio così, inevitabilmente, come dicevi giustamente, i lavori e i commenti di oggi hanno finito per convergere intorno al pacchetto di incentivi varati da Palazzo Chigi. Di passo in avanti positivo ha parlato la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, per la quale però si deve fare ancora di più. Sentiamo le sue parole. Per quanto sappiamo, bene i provvedimenti sull'auto, perché eravamo l'unico paese a non aver fatto qualche cosa a supporto dell'auto e della filiera, e quindi questo avrebbe comportato una distorsione competitiva. È molto importante, da quello che sappiamo, che anche grazie alla nostra insistenza ci sono anche alcuni elementi a favore della piccola impresa per le rivalutazioni dei beni e per alcuni incentivi sulle aggregazioni che potrebbero rafforzare le piccole imprese. È molto importante però che adesso, al di là di questi provvedimenti, poiché la crisi preme, la crisi è forte, si lavori molto a supporto di tutto il sistema delle imprese, di tutto il sistema delle piccole e medie imprese esportatrici, che in questo momento stanno soffrendo molto. Quindi noi continueremo a chiedere elementi che rafforzino e rassicurino il credito alle imprese, chiederemo e vogliamo che ci siano anche delle iniziative a supporto degli investimenti di tutte le imprese di tutti i settori. Non solo incentivi, non solo per singoli settori, ribadisco, andavano fatti perché c'era un problema di distorsione competitiva del nostro settore auto nazionale rispetto a quelli degli altri paesi. Adesso però il grande focus deve essere su tutto il sistema delle piccole e medie imprese di tutti i settori. Esattamente, noi, ripeto, intanto abbiamo ottenuto queste iniziative chieste proprio da tutta la piccola impresa sul rafforzamento patrimoniale delle imprese, e adesso lavoreremo con molta forza su, per esempio, ottenere crediti imposta per gli investimenti, sostegno alla domanda e all'esportazione. Questo è il settore, per esempio, del tessile, un grande settore esportatore, e grande attenzione al credito. Quindi da questo momento la nostra attenzione sarà totale su tutto il sistema delle piccole e medie imprese. Lo abbiamo sentito proprio dalle parole della Marcegaglia: una delle priorità per Confindustria è la ripresa di un regolare flusso del credito dalle banche alle imprese, imprese che secondo il presidente della piccola industria Giuseppe Morandini necessitano da parte del governo di più attenzione sia sul fronte fiscale che dalla parte del credito. Sentiamo le sue parole. No, l'importante è che questo pacchetto sia un cantiere aperto. È bene iniziare da questi settori che sono trainanti per l'economia italiana e nei quali c'è una lunghissima filiera anche di tante piccole imprese. Però è evidente che tutto il mondo della piccola impresa in questo momento ha bisogno di misure fiscali per la crescita e di un mondo bancario che le aiuti in questo momento congiunturalmente così difficile. Sul territorio viviamo quotidianamente delle situazioni di crisi, abbiamo iniziato un grande dialogo al tavolo con ABI, speriamo che a breve il combinato disposto di misure che il mondo bancario può prendere e misure fiscali che il governo può prendere ci possano portare fuori da questo momento. Ma per la piccola impresa è necessario avere una fiscalità che ci accompagni lungo la crescita. crescita. È evidente che abbiamo un sistema produttivo che va ristrutturato, un sistema produttivo in grande trasformazione dove in questo momento non è più negoziabile la crescita dimensionale. E allora, Vincenzo, lo dicevano sia la presidente Marcegaglia e poi Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria, a sostenere in particolare la piccola e media impresa, però oggi a Venezia c'erano anche esponenti, diciamo, della grande impresa italiana, anche a partire proprio da un settore che riguardava la Marcegaglia, che è quello del tessile, molto importante per le esportazioni. È proprio così, il settore tessile è uno dei baluardi del Made in Italy nel mondo, e a proposito di questo abbiamo ascoltato Paolo Zegna, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione. Zegna critico sulle misure adottate dal governo, ascoltiamo perché. Può essere un grande problema, perché è il solito atteggiamento che ci sono i figli e i figliastri, che purtroppo probabilmente dimostrano interesse per chi è... alza di più la voce, non pensando che ci sono delle aziende del settore tessile e abbigliamento, e uno di questi, che costituiscono una colonna portante della nostra economia in termini di forza lavoro, in termini di forza lavoro femminile, in termini di contributo alla bilancia commerciale, in termini di notorietà del nostro mondo, del nostro paese in giro per le altre nazioni, e quindi ci dispiacerebbe molto se questo non venisse preso in considerazione. È difficile effettivamente pensare degli strumenti tipo la rottamazione, anche se magari si potrebbe studiare una possibilità per incentivare gli acquisti per gli abbigliamenti, per arredamento, ristrutturazioni, per i bambini. Però io credo in questo momento ci sia da dare degli aiuti per non mollare sulla parte di ricerca e sviluppo. Noi abbiamo tutta la parte dei campionari, che è il nostro investimento, è quello che ci fa mantenere una leadership mondiale contro i concorrenti anche a basso costo di produzione. Noi, se molliamo e non abbiamo degli incentivi nel continuare a creare, credo che rischiamo poi di morire o di fare delle cose che sono più imitabili dagli altri. Abbiamo una necessità probabilmente di una riduzione del costo dell'energia, e poi io credo che dobbiamo avere un consolidamento dei nostri debiti a breve, con anche un aiuto sulla parte degli interessi che questo comporta. Fin qui dunque le piccole e medie imprese o le filiere di settore. Un osservatorio privilegiato invece sulla crisi e di conseguenza sulle misure adottate dal governo Berlusconi è rappresentato dalle grandi imprese presenti qui a Venezia. Telecom è una di queste. Ascoltiamo cosa ha detto l'amministratore delegato Franco Bernabé proprio sulla crisi. Certamente nei settori dei beni durevoli c'è stata una caduta di domanda rilevante nel corso degli ultimi mesi. Quindi gli interventi di stimolo sono necessari e dovrebbero in qualche modo rilanciare la domanda. Certamente la domanda si rilancia se c'è una condizione complessiva del sentimento delle famiglie più positiva. In questo momento il sentimento delle famiglie è ancora negativo. Io credo che nei prossimi mesi dovremo però avere dei segni incoraggianti di uscita dalla crisi, e quindi i consumi probabilmente riprenderanno. Ma io direi che la situazione dell'Italia, che nel passato non è stata altrettanto brillante di molti paesi europei e degli Stati Uniti, forse aveva in queste condizioni meno bisogno di altri paesi di una massiccia dose di rilancio. D'altra parte bisogna anche tener conto che l'Italia ha un problema storico di debito estremamente elevato, che non consente grande flessibilità di manovra sul bilancio dello Stato. Sempre in compagnia di Focus Economia, sono le 17:46, stanno arrivando moltissimi messaggi al 349-238-6666 a proposito ovviamente del decreto. Molte le vostre critiche: non hanno ancora capito che anziché dare incentivi a favore di imprenditori piccoli o grandi serve detassare lo stipendio dei lavoratori dipendenti. O anche chi ci scrive: non dimentichiamo che le agevolazioni fiscali finiscono per bloccare gli acquisti, perché si finisce per aspettare appunto queste agevolazioni, e poi non ha senso anche perché si premia chi può permetterselo. E qui torniamo al discorso che facevamo precedentemente con Dino Pesole: oltre all'incentivo bisogna poi anche pagarla la rata della macchina e quindi potersela permettere. Vincenzo Miglietta, a Venezia c'era anche un esponente molto importante del mondo bancario, Corrado Passera, il quale su alcune affermazioni è stato si è mostrato piuttosto critico e anche autocritico. È così, parliamo proprio del mondo delle banche, chiamato in causa da più parti oggi qui al Winter University. Per fronteggiare la crisi si può fare di più, ha detto Corrado Passera, Banca Intesa aspetta a noi, aggiunge evitare però la stretta creditizia sulle imprese. Sentiamo. È obiettivo, responsabilità di tutti noi evitare il credit crunch. Questo è un tema delicato, è un tema dove il rapporto col Tesoro, le proposte di cui accennava il nostro coordinatore, è un pezzo importante e dal punto di vista nostro di banca noi abbiamo l'orgoglio di poter dire che il credito è continuato ad aumentare sia l'anno scorso sia nell'ultimo trimestre sia nel primo mese di quest'anno, è molto importante a tutte le categorie di imprese, in particolare nell'ultima parte alle imprese medio-piccole rispetto ad altre, però stiamo parlando di affidamenti che crescono e che oggi arrivano a circa un terzo del PIL italiano, circa 500 miliardi e utilizzi, cioè proprio credito, che è aumentato in tutte queste ultime fasi, lasciando ancora circa 130 miliardi tra affidamento e utilizzo. Questo è importante dirlo perché ci siamo impegnati tantissimo negli ultimi mesi a fare riserva di liquidità, anche se era molto caro, e a mantenere aperta l'attività di credito. Questo malgrado la domanda di credito sia molto diminuita, questo malgrado la qualità del credito sia sicuramente peggiorata, perché è una cosa che tra noi dobbiamo dirci, ma la rischiosità e le perdite su crediti sono aumentate in maniera importante, questo malgrado la possibilità per le banche di raccogliere sul mercato interbancario sia diventato molto molto più caro e molto più difficile. E quindi abbiamo sentito, ascoltato anche le reazioni da parte del mondo imprenditoriale alle misure adottate dal governo. Io ringrazio e saluto Vincenzo Miglietta. Buonasera. A te buon rientro, Vincenzo. E noi adesso invece ci spostiamo a parlare di mercati. È stata una giornata molto molto positiva per l'Europa, sta andando molto bene anche negli Stati Uniti. Ricordiamo la chiusura dei mercati europei, Parigi in progresso dell'1,84%, Francoforte del 2,97%, Londra ha guadagnato l'1,25%, a Milano il MIB in progresso del 2,11%, l'S&P MIB del 2,34%. Buonasera a Paolo Paronetto, collega di Radio Cor del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Allora Paolo, cominciamo da Fiat, perché in una giornata in cui si sono approvati gli incentivi per il settore auto mi sembra che vada a sé l'argomento, più 6,84% in chiusura di seduta. Certo, Fiat è partita positiva fin dall'apertura di questa mattina proprio sull'attesa dei provvedimenti all'esame del governo e ha accelerato il passo dopo l'approvazione del decreto che istituisce gli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di nuove, tra le altre cose, anche di nuove automobili. Il titolo ha guadagnato il 6,84% chiudendo a 4,61 euro e quindi rimettendo nel mirino quota 5 euro, e la notizia e la performance di Fiat ha ovviamente influito positivamente anche sull'andamento dei titoli a monte di Fiat nella catena di controllo della galassia Agnelli. I titoli IFIL hanno guadagnato il 7,5%, mentre i titoli IFIL privilegiati hanno guadagnato il 6,56%. Il titolo è stato tra i più in evidenza per tutta la giornata e, come dicevamo prima, ha chiuso con un rialzo vicino al 7%. Paolo, però c'è un titolo che ha fatto meglio di Fiat ed è STM, che a volte ci regala delle sorprese sia in positivo che in negativo. Esattamente, STM ha guadagnato il 6,91% chiudendo a circa 4,4 euro, e questa volta a spingere al rialzo il titolo sono stati i conti del 2008 diffusi dalla concorrente tedesca Infineon, non si tratta dei conti 2008 ma del primo trimestre del 2008-2009, e sono stati decisamente superiori alle attese. Gli operatori, gli investitori hanno premiato a Francoforte il titolo Infineon con un rialzo superiore al 13% e ne ha beneficiato ovviamente anche ST Microelectronics, dato che conti del genere per Infineon stanno a significare che la crisi colpisce sì il mercato, ma forse fortunatamente meno di quanto temuto in un primo momento. Molto bene anche Telecom Italia, oggi più 6,13%, grazie proprio ad alcune parole dichiarate da Bernabé a Venezia. Sì, l'amministratore delegato di Telecom ha fatto chiarezza su uno dei temi che aveva alimentato l'incertezza sul titolo nelle ultime settimane, e cioè quello dello scorporo della rete. Bernabei ha definito non più in agenda e superato il tema dello scorporo della rete, quindi chiudendo almeno per il momento questo capitolo e favorendo insomma le prese di posizione sul titolo in borsa, visto che ovviamente i mercati apprezzano la chiarezza e non amano invece i dubbi sulla questione. A sostenere le quotazioni è arrivato tra l'altro anche un report degli analisti di Equitasim che hanno alzato le stime di fatturato e di margine operativo lordo per il 2008. Altro titolo che è andato molto bene oggi, Luxottica, più 5,48%, ieri sera mercati chiusi hanno diffuso i dati, ricordiamo anche che il 2008 è stato un anno molto importante con un'acquisizione molto consistente negli Stati Uniti, quella di Oakley. Sì, esattamente, la società ieri ha annunciato i dati di fatturato che è stato superiore ai 5 miliardi di euro e inoltre nella conference call l'amministratore delegato Andrea Guerra ha detto che l'inizio del 2009 è stato migliore rispetto alla fine del 2008 e quindi ha dato segnali positivi sulla ripresa del business del gruppo. Il titolo a Piazza Affari ha guadagnato il 5,48% e ha beneficiato anche del buon momento, della buona giornata di tutto il comparto del lusso sulla scia di LVMH che dopo i conti del 2008 a Parigi ha guadagnato oltre il 12%. Tra i titoli che oggi sono andati molto bene, a dir la verità sono pochissimi quelli che poi hanno chiuso in calo, comunque tra quelli che sono andati meglio c'è anche Atlantia che ha guadagnato quasi 4 punti percentuali. È stata una seduta positiva anche per la società che gestisce tra l'altro anche le autostrade italiane, ha guadagnato il 3,93% e in questo caso a spingere il titolo sono state le dichiarazioni di ieri dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci che ha rasserenato il clima sulle condizioni della società, sottolineando che Atlantia è pronta a cogliere nuove opportunità, dicendo che ha margini di manovra per nuove acquisizioni, visto che negli anni scorsi si è indebitata meno e in una situazione di mercato ed economica come quella attuale, ovviamente chi ha liquidità e pochi debiti è sicuramente favorito. Ancora in rialzo Tenaris, oltre il 5%, qui c'è tutta un'ipotesi di aiuti al settore acciaio in Argentina che riguarda anche Tenaris. Esattamente, queste indiscrezioni avevano spinto il titolo già ieri e hanno continuato a farlo anche oggi. Tenaris ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, e in giornata è arrivato anche un report del Credit Suisse che pur dettagliando l'obiettivo di prezzo ha però confermato il giudizio neutral e ha aggiornato le previsioni anche fino al 2011 dicendo che nel 2011 appunto potrà essere una buona ripresa del business e del titolo in borsa. Paolo, un discorso un po' più complessivo per quanto riguarda i bancari che recuperano oggi, ricordiamo che ieri erano stati piuttosto sotto pressione anche per le attese del piano americano. Sì, esattamente, oggi i bancari, giornata molto positiva, proprio al traino nella seconda parte di quello che hanno fatto e stanno facendo i titoli di istituti di credito negli Stati Uniti, in particolare Bank of America in questo momento guadagna oltre il 21%. Il settore attende l'approvazione del piano Obama di rilancio dell'economia e la presentazione del nuovo piano per dare stimolo al credito annunciato per la prossima settimana dal segretario al tesoro statunitense e proprio oggi a fronte di un dato molto negativo macroeconomico che è quello sull'occupazione degli Stati Uniti in gennaio, proprio un dato così negativo per l'economia ha alimentato l'aspettativa che a fronte di una situazione così grave il Senato statunitense approverà i piani presentati dal governo e quindi queste attese positive hanno spinto tutto il comparto. Grazie a Paolo Paronetto, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Le 18:08, seconda parte di Focus Economia, oggi ultima puntata per questa settimana. E allora, il tema principale di oggi è il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi tutte le misure a sostegno dei consumi per quanto riguarda le vetture, i motocicli e per quanto riguarda anche elettrodomestici e mobili. Andiamo a capire un po' meglio di che cosa si tratta. In arrivo per le vetture un bonus da 1.500 euro per acquisto di 1,4 euro e 1,5 euro e quindi rottamazione di 1,0 euro o 1,1 euro immatricolate prima del 1999. C'è anche un bonus da 2.500 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri in cambio della rottamazione anche qui di veicoli Euro 0, 1 e 2 immatricolati sempre entro il 1999. È previsto inoltre un bonus da 1.500 euro per auto a metano e idrogeno. Nello stesso decreto il governo ha deciso niente bollo gratis, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri non prevede lo sconto fiscale sulla tassa automobilistica. E però aumenta quello che era previsto all'inizio come un bonus da 300 a 500 euro per le moto, 500 euro per la rottamazione di motorini e motocicli, Euro 0 Euro 1 in cambio di una nuova due ruote, Euro 3 fino a 400 di cilindrata, e questo è quanto è previsto dal decreto. E fin qui per quanto riguarda le autovetture e i motocicli. Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici e i mobili per la casa, l'acquisto appunto di elettrodomestici e mobili sarà sostenuto da uno sconto sull'IRPEF del 20%, fino al 20%. La spesa massima è di 10.000 euro e vale se legata ad una ristrutturazione edilizia. Si considereranno al proposito le domande di ristrutturazione avviate dal 1 luglio 2008. Tutto il pacchetto che sostiene queste misure, che prevede appunto sconti fiscali e bonus, vale oltre 2 miliardi di euro e tutte queste misure scadono il 31 dicembre 2009. Nel corso della conferenza stampa nella quale il governo ha presentato il pacchetto sono state date anche alcune dati più precisi per quanto riguarda l'economia italiana. Il PIL nel 2009 registrerà un calo del 2%, mentre il deficit si attesterà al 3,7%. Questo è quanto prevede il nuovo programma di stabilità che il governo italiano si appresta a presentare a Bruxelles. La conferenza stampa è stata aperta dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che nel momento in cui si è arrivati a parlare delle misure a sostegno della crisi per cercare di alleggerire questa crisi, ha anche detto che le misure varate potrebbero dare una spinta complessiva ai consumi tra lo 0,5 e ottimisticamente l'1%. Questo è quanto ha detto Berlusconi, sentiamolo. Contrazione delle vendite e la riduzione della produzione per il 2009 in assenza di incentivi determinerebbero anche un grande costo per lo Stato, per una mancanza, una diminuzione degli introiti che è valutabile in una riduzione del gettito IVA per quanto riguarda le auto immatricolate in assenza di questi interventi pari a 700 milioni di euro, una riduzione del gettito fiscale complessivo da 1,3 miliardi e maggiori oneri di cassa per le persone che vengono messe in cassa di integrazione di 500 milioni di euro. Quali coperture finanziarie comportano per il bilancio dello Stato? Oltre 2 miliardi di euro, a seconda di come verranno utilizzate le varie misure. Però questi incentivi si ripagheranno, come ovvio, in termini di maggior gettito fiscale derivanti dai maggiori acquisti. Ho ricordato poco fa di minori costi per la cassa di integrazione e minori costi provocati dai danni per l'inquinamento ambientale e infine ho ricordato già maggiore sicurezza sulle strade, quindi meno incidenti, minori costi per la sanità pubblica. Questo intervento è, come deve essere, compatibile con i conti pubblici e potrebbe dare una spinta complessiva ai consumi che potrebbe essere entro lo 0,5 è ottimisticamente l'1% di PIL. Nel corso della conferenza stampa, lo stesso presidente Silvio Berlusconi ha chiesto però espressamente alle imprese del settore automobilistico assicurazioni come mantenere gli attuali stabilimenti in Italia, investire su nuovi prodotti e rispettare i pagamenti ai fornitori della componentistica che sono in forte sofferenza. Queste saranno probabilmente alcune delle condizioni che sono state già introdotte all'interno del decreto. Come abbiamo sentito nella prima parte della puntata della nostra trasmissione, le reazioni dal mondo imprenditoriale sono già arrivate, perché oggi riuniti a Venezia, dove c'era anche la presidente Emma Marcegaglia per i lavori della Winter University, la Marcegaglia ha detto: serve di più per tutto il sistema. Sentiamola. Per quanto sappiamo, bene i provvedimenti sull'auto, perché eravamo l'unico paese a non aver fatto qualche cosa a supporto dell'auto e della filiera, e quindi questo avrebbe comportato una distorsione competitiva. È molto importante, da quello che sappiamo, che anche grazie alla nostra insistenza ci sono anche alcuni elementi a favore della piccola impresa per le rivalutazioni dei beni e per alcuni incentivi sulle aggregazioni che potrebbero rafforzare le piccole imprese. È molto importante però che adesso, al di là di questi provvedimenti, poiché la crisi preme, la crisi è forte, si lavori molto a supporto di tutto il sistema delle imprese, di tutto il sistema delle piccole e medie imprese esportatrici, che in questo momento stanno soffrendo molto. Quindi noi continueremo a chiedere elementi che rafforzino e rassicurino il credito alle imprese, chiederemo e vogliamo che ci siano anche delle iniziative a supporto degli investimenti di tutte le imprese, di tutti i settori. Un aiuto, sicuramente in questo caso un po' più diretto per le tasche degli italiani, arriva anche dal prezzo dalla discesa delle quotazioni del petrolio, che ha effetti positivi per cittadini e imprese. Effetti che il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha provato a tradurre in cifre. Sentiamolo al microfono di Vincenzo Miglietta. Ogni famiglia italiana, composta da 4 persone, abitante nel nord Italia, si troverà in tasca qualcosa come 1.200-1.400 euro di più in un anno, se i prezzi restano più o meno a questo livello. Beh, credo che sia una buona notizia, perché è una specie di quattordicesima che gli italiani avranno a disposizione per fare altri consumi oppure per risparmiarla. Le sue stime sul medio e sul lungo termine? Lei sa che a fare previsioni su questo terreno si sbaglia più spesso che lo sia di quanto lo si azzecchi. Io peraltro penso che i prezzi rimarranno a questo livello per ancora molti mesi, finché non ci sarà una ripresa economica, e in assenza di perturbazioni internazionali che per il momento non si vedono, credo che non ci sia ragione per cui i prezzi debbano risalire. Diciamo, nel lungo periodo, se si dovesse avere una lunga fase di prezzi bassi, gli investimenti in questa industria si ridurrebbero e si preparerebbero le condizioni per nuovi prezzi alti tra 4 o 5 anni. Questo andamento ciclico e questi cicli così esasperati del prezzo del petrolio sono certamente un fatto negativo. Avere la principale commodity del mondo, che è il petrolio, che in 2 anni passa da $50 a 150 e poi in 6 mesi passa da 150 a 40, dà un ulteriore tasso di instabilità a un mondo che mi sembra abbastanza instabile già per i fatti suoi. Il capitolo crisi economica cosa prevede e cosa pensa di ciò che sta facendo il governo? Dunque, per la verità, grandi segnali di schiarite non mi sembra che si possano vedere a livello mondiale. Anche se devo dire che mi sembra di poter condividere l'opinione espressa da molti, che in Italia ci sembra che morda un po' meno che altrove. Io poi resto ottimista, un po' per quello che dicevo prima dei prezzi del petrolio e delle altre materie prime, che vuol dire poi un trasferimento di ricchezza dai paesi produttori ai paesi consumatori. E un po' perché sono convinto che tutte le azioni dei governi per rimettere in ordine il sistema bancario mi sembra stiano dando buoni risultati. A questo punto, quando avremo liquidità nel sistema con tassi di interesse molto bassi e un'inflazione tenuta bassa dalle materie prime basse, beh, mi sembra che ci siano tutte le condizioni perché l'economia possa riprendere a crescere. Quello sulla rottamazione dell'automobile nel passato ha funzionato e non c'è ragione che non funzioni anche questa volta. È Allora, sono sempre tanti gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666 per saperne di più, per capire di più che cosa succederà con questo decreto, quali sono nello specifico le misure. Ovviamente dobbiamo aspettare ancora un po' per capire tutti i dettagli, perché non abbiamo materialmente il testo del decreto. È probabile che gli incentivi si potranno sommare nel caso in cui si acquisti un'auto completamente ecologica, quindi un'auto oltre all'incentivo alla rottamazione anche l'incentivo per un'auto verde, chiamiamola così. Però per tutto il resto bisognerà attendere almeno qualche giorno e comunque le prossime ore per capire che cosa c'è scritto materialmente all'interno del decreto. Adesso però noi lasciamo l'Italia e quanto è accaduto nella giornata di oggi e ci spostiamo negli Stati Uniti, dove è perché da loro è ancora in pieno svolgimento la giornata, una giornata molto difficile dal punto di vista economico. Sono arrivati bruttissimi dati per quanto riguarda il mercato del lavoro. A gennaio persi quasi 600.000 posti di lavoro, molto più della stima media degli analisti. Si tratta del numero più alto dal dicembre del 1974. Il tasso di disoccupazione arriva al 7,6%, ai massimi da 16 anni. Siamo in collegamento con New York, dove c'è Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore, che saluto. Buonasera Mario. Buonasera, situazione drammatica, non potevi descriverla meglio. 600.000 disoccupati in America in un mese, sono cifre che fanno tremare i polsi, soprattutto perché ci si domanda che cosa succederà. Andremo avanti continuando a perdere posti, occupazione, lavoro a questi ritmi? Che impatto alla fine ci sarà sull'economia? È vero che la forza lavoro americana è molto vasta, parliamo di 134 milioni di persone, per cui non è che hai recitato il tasso di disoccupazione al 7,6%, quindi non è che siamo arrivati a quei livelli del 16%, del 18%, del 20% che abbiamo registrato una grande depressione, ma è chiaro che davanti a un dato così e davanti al fatto che negli ultimi tre mesi si è persa occupazione al tasso di 500.000 posti di lavoro al mese, 3,6 posti, milioni di posti di lavoro soltanto negli ultimi sei mesi, beh, allora a questo punto dobbiamo, si dice, cominciare a preoccuparci. Questa è, diciamo, la visione pessimistica. Se le cose continuano così sarà un disastro. La visione ottimistica, o direi più serena, cerca di mettere l'accento sul fatto che forse questo è il momento peggiore, forse avremo ancora un mese o due davvero difficili, ma l'augurio, la speranza, l'auspicio è che si possa poi fare un giro di boa, quantomeno stabilizzando la situazione e quindi non continuando, certo, a peggiorarla. Ma questo è il contesto. Su questo è intervenuto oggi Barack Obama. Proprio di questo ti volevo chiedere, anche perché, se non sbaglio, è uscito anche un articolo a sua firma sul Washington Post. Sì, qua le cose si accelerano talmente rapidamente che ormai l'articolo appartiene al passato remoto. È uscito ieri mattina, è un articolo in cui il presidente, con molto garbo, così richiamava l'attenzione di tutti sull'urgenza, ma ieri sera ha fatto un discorso, una chiamata alle armi, ha fatto il suo primo volo presidenziale. Per la prima volta è uscito su Air Force One, è andato a Williamsburg in Virginia, uno dei posti sacri per la storia americana, dove ha incontrato la base del Partito Democratico e ha pronunciato un discorso di fuoco per chiamarli alle armi, per convincere i parlamentari ad andare avanti col passaggio di questo pacchetto. Oggi, di nuovo, pochi minuti fa, abbiamo visto Obama in diretta, ha presentato questo suo ennesimo consiglio di economisti, esperti, manager, executive, politici, in tutto 16-17 persone guidate da Paul Volcker, quindi il grande saggio dell'economia americana, e che si aggiunge alla schiera vasta di consiglieri che dovrebbero in qualche modo aiutare Obama. Ebbene, di nuovo Obama ha posto l'accento su quel che è successo, usando, devo dire, parole drammatiche. In qualche parte d'America ha detto: in questo momento una piccola azienda sta chiudendo i battenti, in qualche parte d'America una famiglia sta perdendo la casa, si trova senza il lavoro, senza la scuola, in qualche parte d'America ci sono migliaia di disperati che passano da una situazione di relativa sicurezza e certezza alla totale incertezza. Questa, ha detto Obama, è la nostra missione, di portare a Washington il messaggio del cambiamento, di occuparci di queste persone, di nuovo un appello al passaggio di questo pacchetto di stimoli fiscali, pacchetto che è in discussione in queste ore al Senato, si sta cercando di trovare una formula per avere un compromesso con i repubblicani in modo da poter superare la maggioranza. Ricordiamolo, i democratici hanno una maggioranza sì, ma non una maggioranza assoluta, quindi i repubblicani, al di là del voto di 60 su 100, possono fare l'ostruzionismo. Ecco, bisogna che ci sia 61 voti e su questo si sta lavorando per cercare di passare il pacchetto. Le buone notizie sono: il pacchetto forse sarà votato, o comunque il compromesso dovrebbe essere già raggiunto oggi. Lunedì ci sarà il piano per le banche presentato da Geithner, il ministro al tesoro, un nuovo piano che dovrebbe portare davvero un'ampia boccata d'ossigeno per questo settore bancario che continua a essere così strangolato dalla mancanza di liquidità, e poi la riconciliazione in congresso, il passaggio definitivo del pacchetto. Tutto questo, queste misure che si stanno materializzando, ha portato un po' di ottimismo in borsa. Il Dow Jones era al rialzo dell'1,2%. In questo momento del 2,10%, mentre il Nasdaq anche qui guadagna il 2,06%. Una corsa progressiva al rialzo, e i nostri ascoltatori possono chiedere: ma come mai nel giorno in cui si perdono 600.000 posti di lavoro? Ecco perché? Perché la borsa guarda in avanti, perché forse le cose davvero possono cambiare, perché molto spesso una vecchia regola, questa del mercato, si compra sulla brutta notizia, si vende sulla buona. Speriamo, Mario, che sia così, e speriamo che questi siano davvero gli ultimi mesi di passione, che si possa guardare avanti. Grazie a Mario Plataro in collegamento da New York. Grazie a lui e buon lavoro, buon proseguimento. E noi ci avviamo in conclusione. Allora, ripetiamo quanto abbiamo già detto, perché davvero gli SMS sono tantissimi. Per tutti i dettagli del decreto bisognerà attendere ancora qualche ora per noi, o almeno domani, per sapere tutti i dettagli, per capire chi potrà beneficiare di questi bonus e a quale condizione. In chiusura vi ricordo la giornata euforica per quanto riguarda le piazze del vecchio continente. Parigi ha guadagnato l'1,84%, Francoforte il 2,97%, Londra l'1,49%, molto bene anche Milano, Mibtel più 2,11%, S&P MIB più 2,34%. In chiusura una notizia appena arrivata per quanto riguarda Unicredit: il prestito obbligazionario convertibile da 3 miliardi lanciato qualche settimana fa. Cari Verona, che è il primo azionista, non sottoscriverà la propria parte, ma resterà comunque primo azionista di Unicredit e non farà mancare il proprio sostegno. Questo è quanto ci raccontano in questo momento le agenzie. Noi ci fermiamo qui, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, a tutti voi l'augurio di un buon weekend.